popoli, chi è romano e chi di Roma sostien la fede e il divin culto adora. Or cadite profonda del mondo la regina, sugli altari consacra ostie e profumi, giuri d'abisso ai numi a morir dei latini, gente che a noi rubella oggi si scopre il nome ancora e lo dimostri l'opre. Primo io vado all'altare, voi del mio cor seguite l'opra divota e il giuramento udite.